nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.48 e tramonterà alle 16.25. La giornata oggi dura dunque 8 ore e 37 minuti, come il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno. Domani invece passiamo a 8 ore e 38. Le giornate iniziano dunque ad allungarsi. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. C'è un libro di recente pubblicazione, Salvia e Rosmarino, di Giosuè e Rita Chiaradia, che indaga l'alimentazione tradizionale in Friuli e in filigrana fa intravedere come fosse la vita nei campi d'inizio Novecento, una vita e dei prodotti che non hanno tempo. Questo nel servizio di apertura, per passare poi ad una ricerca francese di livello che dimostra come il mangiare biologico metta al riparo dai tumori. Stefano Montello, nella sua rubrica dell'orto, ci spiega con molto tatto come si possa trasformare questo lavoro in una missione sociale, mentre per la rubrica delle piante largo al vischio e senza magica di questi giorni. Per la sicurezza alimentare un'altra regola aurea, ovvero quella di cuocere bene i cibi, mentre per lo spazio della gastronomia nostrana l'elogio alla putizia, riscatto natalizio in fatto di dolci. Previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, andamento dei mercati agricoli e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Oggi Vita nei Campi vuol parlarvi di un libro, Salvia e Rosmarino, di Giosuè e Rita Chiaradia, uno spaccato della vita contadina e dell'alimentazione contadina nel Friuli occidentale. Una fotografia d'inizio Novecento che possiamo estendere ovviamente a tutto il Friuli. Alimentazione tradizionale in Friuli è il sottotitolo. Ne parliamo con Enos Costantini, che ha curato questo libro e comincia a dirci chi è Giosuè Chiaradia e sua moglie Rita. Giosuè Chiaradia è un ex insegnante delle scuole di Pordenone, il quale, vedendo che una società stava scomparendo, ha somministrato dei questionari molto precisi ai suoi allievi di tutto il Friuli occidentale, quindi da Erto Bruniera a Spilimbergo Fontana Fredda. È stato raccolto una massa di materiale incredibile e quest'ultimo volume comprende la parte alimentazione. Quindi è un'opera scientifica che io ho anche definito un manuale di storia alimentare di tutto il Friuli, perché il Friuli occidentale è un campione molto rappresentativo di tutto il Friuli. E guardando queste ricette si capisce cosa c'era dall'altra parte, l'orto, il campo. Non le chiamerei ricette, chiamerei delle preparazioni. Qui non ci sono i dosaggi, per carità, non esisteva il bilancino in nessuna cucina, evidentemente, no? Ecco, sono delle preparazioni, ne ho contate 477, le quali si basavano spesso sulla fantasia della donna di casa, perché doveva fare con quello che era disponibile. Non c'erano i supermarket, evidentemente, e quindi cosa c'era a disposizione? L'orto, anche d'inverno, difatti qui la verza ha un suo posto ben preciso, e tanti fagioli. Faccio solo degli esempi. Una famiglia consumava un quintale di fagioli all'anno minimo. Il maiale, ci sono 77 preparazioni a base di maiale. Questo non significava maiale ogni giorno, ovviamente, con un quintale e mezzo, un quintale e otto di carne, 4, 5, 6, 8 persone vogliono fare passare, attraversare tutto l'inverno, con le verze, con la brovada e tutti questi bei contorni, che qua evidentemente sono ben descritti come venivano fatti nella prima metà del Novecento. Che agricoltura si può intravedere leggendo questo libro? Era l'agricoltura che viene spesso, anche da tanti studiosi, disprezzata, perché era per il consumo familiare, e invece guai per il consumo familiare. Un'agricoltura, secondo me, verso la quale, con i tempi modificati, dovremmo tornare. Cioè, l'orto bisognerà che torni. Se non ci sono almeno 4 galline per le uova quotidiane, direi che non c'è assolutamente problema di colesterolo, per carità, è un'invenzione, e direi che dovremmo possibilmente, non dico tornare lì, ma procedere nella nostra civiltà tornando finché sarà possibile, a un'agricoltura di prossimità. Finalmente un libro di vera cultura materiale. Sì, questo è un libro di vera cultura materiale, scientifico. Tutto quello che c'è qui dentro, preparazioni, possono essere riproposte anche oggi. Chiaramente qui c'è anche l'utilizzo del sangue di maiale, che oggi non mi sentirei di riproporre, anche perché è introvabile, però direi che il 90% dei casi si può rifare in famiglia, al di fuori della pornografia alimentare che ci sta annientando proprio la cultura della cucina. Più bio, meno tumori. È quanto ci riporta Cristina Micheloni per la rubrica del bio, che cita uno studio francese che dice... Uno studio recentissimo di ottobre, recentissimo, è pubblicato su una rivista scientifica referata, come si suol dire, e che riporta i dati di ben 7 anni di lavori, da 2009 al 2016, che hanno interessato una popolazione molto ampia, 70.000 persone che sono sottoposte volontariamente all'analisi del sangue, di altri parametri della salute, e soprattutto su cui i ricercatori francesi sono andati a cercare correlazioni eventuali fra stile di vita, attività fisica, fumo, non fumo, ma anche alimentare, quindi mangiare o non mangiare biologico in maniera consistente, e rischio di tumore. I risultati, li riassumo, ma c'è il testo completo dell'articolo, se siete interessati, alla pagina Facebook della trasmissione, riportano un 25% in meno di rischio di contrarre malattie come il tumore, ma anche nello specifico alcuni tumori, come il tumore al seno postmenopausa, i linfomi, il linfoma non Hodgkin, ma i linfomi in genere, e quindi un 25% in meno di rischio per chi mangia in maniera abitudinaria, quindi non occasionalmente, del biologico. È un dato importante che ha avuto una vasta eco in Francia, su Le Monde, sui quotidiani. In Italia invece è passato un po' così sotto silenzio. Studi di questo tipo non ce ne sono molti, perché sono molto lunghi, molto costosi, e capite bene che i finanziatori di solito prediligono altre tipologie di risultati e di approcci. Stando spesso dall'altra parte. Ma devono vendere, mettiamola così, quindi vendere salute non è una cosa redditizia, vendere rimedi per stare in salute invece è molto più redditizio. Per cui questo è uno dei primi studi su questi popolazioni, non il primissimo, sono stati degli studi olandesi prima, però è uno dei pochi studi aggiornatissimi che testimoniano questa cosa. L'auspicio è che ci sia qualcun altro, anche in altre condizioni, per esempio in Italia, che prenda questo esempio e abbia il coraggio di andare avanti per i prossimi 10 anni a dire quello che sono gli effetti cronici e di un certo tipo di agricoltura e di alimentazione, ma se vogliamo anche dell'effetto delle altre sostanze che si usano in agricoltura. L'orto può essere anche una missione, un'avventura sociale, una sfida, come ci racconta il nostro Stefano Montello. I contadini sono stati i primi filosofi, i primi biologi, i primi climatologi, i primi colonnelli dell'aeronautica a fare le previsioni del tempo, i primi narratori di storie. E dopo tutto, chi ogni giorno si confronta con il mistero della vita, poi non può non essere capace di inventare i miti della creazione. Ecco, durante l'inverno i contadini hanno fatto sempre altri mestieri, di muratura, di carpenteria, di falegnameria, di abilità manuali, lavori di alto artigianato, anzi a volte veri e propri lavori artistici. Tra i molti mestieri, come ho detto, c'è sempre stato anche quello di narrare delle storie. E così, in attesa che passi questo lungo inverno, vi narrerò anch'io una storia. È una storia vera, di un semplice contadino a cui hanno chiesto di andare a dirigere una fattoria sociale. Una fattoria sociale è un luogo dove delle persone con disagio psichico, insieme a degli operatori specializzati, lavorano la terra e solitamente producono frutta e verdura o si occupano di animali. In questo luogo, come si può immaginare, si lavora, si comunica, ci si relaziona, ci si vuole anche bene. Ma in questo luogo possono accadere anche molte cose piuttosto bizzarre. La storia inizia così. «Lo sai guidare un trattore?» gli chiedo. «Ma certo, freno, frizione, acceleratore, bla bla bla bla bla bla». Ma quando innestò la retromarcia, un lamento straziante giunse dal cambio e giunti i cardani ci spruzzarono olio come se fosse sangue. Lui mi guardò con aria rassicurante di chi dice «Tranquillo, io so». «Ai», pensai, «cominciamo bene». Il nostro trattore, in fattoria, non è esattamente un trattore, è qualcosa che gli assomiglia. Passo di 120 centimetri e lunghezza di poco più di 2 metri, snodabile, rossiccio di colore, molta ruggine, un aspetto generale piuttosto triste. Un giorno stavamo arando un pezzetto di terra e in lontananza vedemmo arrivare un altro trattore, un trattore da terzisti, enorme, verde brillante, 4 ruote motrici e un aratro a 3 ali con volta orecchi, l'aria condizionata, l'autoradio e il guidatore usava le cuffie. Appena piantò la lama nel terreno, come avvisati da un oscuro richiamo, arrivarono dalla vicina laguna alcune centinaia di gabbiani che seguivano la scia dell'aratro. Il loro banchetto era iniziato. Noi, a 100 metri di distanza da lì, sul nostro trattorino invece niente, neanche un gabbiano. Lui centinaia e noi nulla. Era forse un simbolo della nostra condizione. Lui, normale, potente, maggioritario, vincente. Noi, non molto normali, sfigati, minoritari, perdenti. Ma la nemesi compensatrice si appalesò a metà mattinata nelle sembianze di un gabbiano. Sì, un gabbiano. Arrivò dallo stormo più numeroso, spinto non si sa da che cosa, ed atterrò dietro il nostro solco. Non è che fosse poi così diverso dagli altri gabbiani, anzi, sembrava del tutto uguale. Stesse penne bianche e grigie, stesso incedere elegante, stesso guardo un po' babbeo. Eppure aveva fatto una scelta non convenzionale. Era uscito dal branco per esplorare un altro mondo, il nostro. Restò con noi tutta la mattinata e fu bellissimo. È la pianta d'eccellenza di questi giorni, il vischio, pianta magica e curativa, come ci spiega Antonino Danelutto. Si narra che i druidi, sacerdoti degli antichi popoli celtici, nelle fredde notti lunari successive al solstizio invernale si riunivano vestiti di bianco nei boschi e con un falcetto d'oro tagliavano il vischio che a Capodanno offrivano alla popolazione, certi che avrebbe recato salute e fortuna. Anche oggi, in attesa del nuovo anno, nel periodo natalizio si è soliti regalare rami di vischio in segno di pace e prosperità. Questo piccolo arbusto globoso, il cui nome scientifico è Viscum album, in friulano visc, è alto fino a 50 cm, cresce su alberi sia di latifoglie come peri, meli, pioppi, sia di conifere come pini e più raramente larici e abeti. Ad essi si fissa mediante organi succiatori, detti austori. Ha rami ripetutamente biforcati, foglie sempreverdi opposte, piuttosto coriacee, i fiori sono poco appariscenti, piccoli, giallo-verdastri, dal profumo gradevole. Ogni pianta porta fiori o solo maschili o solo femminili. I frutti sono bacche sferiche biancastre, grosse come piselli, con un unico seme immerso in una polpa gelatinosa e appiccicaticcia. Il vischio non è tanto comune, è emiparassita in quanto trae dall'albero che lo ospita solo acqua e sali minerali, essendo dotato di clorofilla con cui elabora autonomamente la sostanza organica. Gli uccelli che mangiano le bacche ne favoriscono la disseminazione. I giovani rami e soprattutto le foglie venivano utilizzati contro l'ipertensione, ma secondo studi recenti l'infuso del vischio non sarebbe efficace in quanto le viscotossine ipotensive verrebbero decomposte nel tratto gastrointestinale prima di venire assorbite. Invece l'estratto, impiegato sotto stretto controllo medico e iniettato sotto cute, grazie alle lectine, ha documentati effetti terapeutici contro il cancro. L'intera pianta è considerata velenosa, in particolare le bacche. Sono stati segnalati gravi casi di intossicazione anche mortali. La pania, impiegata per la cattura degli uccelli, si otteneva con un lungo procedimento dalle bacche e dalla corteccia del vischio, sostituite poi dalle cortecce dell'agrifoglio e della lantana più facilmente reperibili. I rametti, appesi in casa o fuori, allontanerebbero il malocchio. Si dice che i fidanzati che a Natale si baciano sotto il vischio saranno felici per tutto l'anno che verrà, entro il quale convoleranno sicure nozze. Ma se invece la ragazza rifiuterà il bacio, dovrà attendere almeno un anno prima che si parli di matrimonio. Cuocere bene gli alimenti è una delle 5 chiavi della sicurezza alimentare che ci sta illustrando Claudia Fontanini, la responsabile dell'ufficio certificazione e qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, che ci cura la rubrica qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Il calore è un ottimo mezzo per ridurre il pericolo di germi patogeni veicolati da alimenti. La cottura, se effettuata correttamente, rappresenta quindi un momento fondamentale per garantire la sicurezza dei cibi. Gli alimenti di origine animale sono a maggior rischio di contaminazione e se crudi o poco cotti, pensiamo per esempio a salse a base di uova crude come la maionese fatta in casa, alla carne al sangue, al pesce o ai frutti di mare crudi, vanno evitati dalle persone più vulnerabili, quindi da anziani, bambini piccoli, donne in stato di gravidanza, persone malate. Bisogna prestare attenzione a cuocere bene, in particolare alcuni alimenti. Per esempio, pollame, polpette, hamburger e salsicce non devono mai essere al sangue, ma vanno cotti finché all'interno non appaiono più rosati e i siero di cottura devono essere chiari e non rossi o rosati. Sarebbe utile disporre di un termometro ad infissione per valutare che l'interno delle carni raggiunga durante la cottura i 75 gradi centigradi. Cibi come zuppe e ragù vanno portati a ebollizione per essere sicuri che abbiano raggiunto i 75 gradi. In generale è preferibile consumare gli alimenti immediatamente dopo la cottura. Se non fosse possibile, vanno messi in frigorifero, comunque per un periodo limitato, o nel freezer per conservarli più a lungo, dopo averli fatti rapidamente raffreddare. I cibi precedentemente cotti, prima del consumo, vanno di nuovo scaldati ad alta temperatura, in modo da eliminare i batteri che possono essersi sviluppati nel frigorifero. Per quanto riguarda la cottura con il microonde, ricordiamo che le microonde fanno vibrare le molecole d'acqua interne all'alimento, creando attrito e quindi calore. Le onde però penetrano solo per alcuni centimetri. Il centro del prodotto cuoce quando il calore poi si diffonde dallo strato esterno verso l'interno. Il riscaldamento nel forno a microonde, quindi, se troppo corto, non garantisce un riscaldamento omogeneo dell'intero alimento e non permette in questo caso la sanificazione completa. Per la cottura al microonde è consigliabile allora suddividere l'alimento in pezzi di dimensioni uniformi in modo da consentirne una cottura omogenea e anche ruotare spesso il cibo controllandone attentamente il grado di cottura. È raccomandabile riscaldare il cibo in un contenitore coperto fino a quando il vapore non fuoriesce. Ci diffama dicendo che la regione non ha un dolce natalizio tradizionale, rispondiamo assieme a Roberto Zottar che basterebbe citare la Putizza e le sue sorelle. Natale è anche tempo di dolci, ma secondo la contessa Perusini nella cucina friulana manca un dolce natalizio, mentre sappiamo che nella Venezia Giulia si gustavano le frittole di pasta lievitate, ora scomparse, secondo il detto «de Nadal le frittole de Pasqua pinza e tittole». Molto classica però a Natale è anche la putizza, che, come scriveva già a metà del Settecento il medico Baltasar Achet, viene preparata in occasione sia del Natale sia della Pasqua. Putizza, potizza, o gubana delle valli del Natisone o Rheinling della Val Canale, sono dolci acciambellati simili caratterizzati da una pasta lievito ricca che avvolge un gustoso ripieno. Se la prima citazione del termine gubana la troviamo in una poesia goriziana del 1614, il termine sloveno potizza, contrazione di povitizza, cioè rollata, è già presente nell'opera dello storico Janez Weikart Valvasor di Heres des Herzogtums Krain, la gloria del Ducato della Carniola del 1689, dove viene descritta come un dolce con impasto finemente steso e spalmato di noci e miele, arrotolato e cotto. Ricette di putizze con noci e miele si trovano sia in vari testi austriaci col termine di Nusspotizze, sia nei recettari sloveni, sia in quelli giuliani. Le ricette più antiche prevedono di sbollentare le noci con caffè o latte caldi. Non avevo capito l'utilità di tale procedura fino a che ho trovato uno scritto che riportava due proverbi. Il primo ricorda che le noci maturano a Santa Maddalena il 22 di luglio, par Santa Maddalena la cocula le plena. Il secondo ricorda che le noci irrancidiscono già il 10 di agosto a San Lorenzo, par San Lorenz la cocula rens. L'operazione di sbollentatura serviva quindi a ridurre la flora delle noci autoctone facilmente irrancescibili. L'uso attuale di noci di Sorrento californiana rende invece inutile questa procedura. Per realizzare una putizza con noci e miele, preparate una pasta a lievito con mezzo chilo di farina, 50 g di lievito, 80 g di burro, 50 g di zucchero, 3 tuorli, un uovo intero, un pizzico di sale, buccia grattugiata di limone e fate lievitare. Per il ripieno, riscaldato in un tegame 300 g di miele con mezzo bicchiere di latte, una noce di burro e 400 g di noci macinate, aromatizzate con vaniglia, rum, scorza di limone e distribuite a freddo sulla pasta stesa. Arrotolate, acciambellate, mettete in una tortiera imburrata, spennellate con uovo sbattuto e dopo aver fatto rilievitare, infornate a calore moderato per un'ora. Buon appetito e buon Natale! E Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,70 e 16,90 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento buono mercantile tra 20,40 e 20,70, l'orzo tra 20,50 e 21 euro, la soia tra 33,20 e 33,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 20 centesimi, mentre la soia è diminuita di circa 4,50 euro al quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano ancora cenni di pesantezza. I mercati dei bovini e macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,20 e 2,70 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,50 e 2,20. Quotazioni ancora in calo nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono pagati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo, IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,30 e 5 euro. I frisoni tra 1,50 e 1,80. I bruni tra 1,40 e 1,70. Anche nel settore suinicolo continua la tendenza congiunturale e i lattonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 1,83 euro al chilo, IVA esclusa, e i grassi da macello a 1,14. Stabilità invece nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,50 e 20,10 euro al quintale, IVA esclusa, mentre le quotazioni della paglia di cereali pressata oscilla tra 13 e 13,50, sempre IVA esclusa. E con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. L'inverno meteorologico 2018-2019, iniziato il 1 dicembre, ha presentato nella prima decade temperature medie sopra la norma, fra 1,5 grado e 2 gradi su pianure costa e a fondo valle, di 1 grado in più invece in quota. Nella seconda decade si è registrato un calo generale delle temperature, sia medie che minime, con valori fra 1 grado e 1,5 grado inferiori al normale e fino a 3 gradi sotto la media sui monti in quota, segno della presenza di masse d'aria più fredde continentali. Sabato scorso, in un particolare avvallamento vicino alla Malga Tuglia, a 1600 metri di quota, in comune di Forni Avoltri, si è registrato il valore minimo più basso per questo primo scorcio d'inverno, con meno 24,7 gradi, mentre a Sapale e a Fusine i termometri erano scesi fino a meno 12 e in pianura a meno 5. Ora le temperature sono abbastanza vicine alla media del periodo. Le precipitazioni questo mese sono state finora piuttosto scarse, inferiori al normale. L'evoluzione atmosferica sulla regione nei prossimi giorni non sarà particolarmente rilevante, a parte un moderato e temporaneo afflusso di correnti fredde settentrionali che avverrà domani, con una discesa delle temperature, un po' di vento da nord-est, condizione che sarà molto utile alla rimozione degli inquinanti atmosferici presenti nei bassi strati sulla regione, a causa del ristagno degli ultimi 3 giorni dovuto all'inversione termica. Per Natale e Santo Stefano avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Lo zero termico tornerà a salire intorno a 1400 metri di quota circa, con atmosfera più secca in montagna, soprattutto in quota, mentre su pianura, costa e nel fondovalle avremo un po' più freddo, con qualche grado sotto zero di notte, ma poi con la risalita delle temperature in quota tornerà a esserci inversione termica, con possibili nubi basse, foschie e locali nebbie, specie a partire da mercoledì. Nella seconda parte della settimana e verso il prossimo weekend non si prevedono al momento importanti cambiamenti della circolazione atmosferica, con la presenza dell'anticiclone di origine nordafricana, che favorirà ancora stabilità atmosferica ed inversione termica nei bassi strati. Avremo quindi ristagno atmosferico su pianura e costa con temperature nella media del periodo, più sole in quota con temperature miti per la stagione. L'evoluzione successiva a medio termine, verso Capodanno, al momento non sembra essere caratterizzata da particolari cambiamenti. Invitando a seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni, tutto lo staff ARPA Osmer vi augura buon Natale. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: Stelis tegnot di Nadal, pomis culpesenal. Se la notte di Natale si vedono le stelle, ovvero è sereno, l'annata per la frutta sarà buona, da andare a raccogliere con il pesenal, una sorta di cesto. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci anche su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione assieme a Rita Micoli vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?